siamo punto e da capo, in marcia su nuovi sentieri. Ogni passo un frammento di ciò che cerco, perché questo è cigno. E adesso dimmi, dimmi se ne sa. In marcia su nuovi sentieri, lasciando i sogni di ieri, lasciando segni su fogli, nuovi pensieri, migliori orizzonti, più innanzi, più avanti, gli spazi che cerco più grandi e importanti. Solo pochi istanti e già siamo distanti, distinti dal resto, ormai non m'arresto, persevero, insisto, resisto, il destino fra le mani, ripasso i miei piani, i miei brani in vista del domani. Lavoro per il meglio, copio, incollo, taglio, vaglio, veglio su di un foglio, sbadiglio, mi sveglio sul ciglio e barcollo, sempre in bilico, instabile, altro che statico, ma senz'altro inorientabile, abile nel coniugare passione ed impegno, questione d'ingegno, i punti che segno nel segno del cigno, pregno di contenuti, concentro in pochi minuti, concetti pensati, l'essenza dei trascorsi vissuti. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Quanto posso do, e certo non è poco, invoco il compimento dello scopo, dopo tutto quello che ci ho messo, me stesso che credi, dopo aver commesso passi falsi come colpi che incasso restando in piedi, e me lo chiedi, non è mai stato semplice, no, ma non lo vedi, il mondo in questo è complice, duplice il travaglio, la sintesi di ciò che voglio, di ciò che è meglio, ma già vedo uno spiraglio, il valore di ogni errore che ho fatto è nell'impegno, nel riscatto che aspetto, da un prodotto perfetto, mi ci metto, cerco un punto d'incontro, ciò che porto per l'antro, basi, rime e quant'altro. Peraltro non so bene dove sia l'obiettivo, in parte scrivo intellettivo, in parte istintivo. Il motivo se c'è, là dov'è, ben nascosto, non ci vado, ma al contempo non rinuncio a tutto questo. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Ed è così che va. Ti credi al sicuro? Di sicuro ti sbagli, per quanti nodi tu sciogli, ad ogni passo che muovi, per ogni rotta che scegli, saranno scogli su scogli, per tutte le speranze che ritagli, le paghi. Forse in prospettiva è solo tempo perso, ma per quanto posso io vivo per l'adesso. Ammesso non concesso che ci sia un sentiero giusto, compiango chi si è perso, perché almeno io ho questo. E mesto me ne resto in certi giorni senza senso, intanto penso ad un giorno più denso, un giorno in cui scanso, scanso in grigio in cui arranco, verso ciò di cui manco, forte, di ciò che valgo, dal basso tengo banco, salgo se sale, il finale suono che vale, so che vale la pena di darsi da fare, di farsi del male, dare tutto, nonostante tutto, nonostante che tutto un giorno andrà distrutto. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. E tutto questo è in se stesso, il suo senso, il compimento e lo scopo. Quindi vado avanti e non rinuncio a darci un senso, non cerco un compenso, non penso che nulla più di questo mi sarà mai concesso. Lo stesso persevero, se la Z è lo zero, porto ciò che è dato dare dai disegni del cielo. Ora mi metto in gioco, gioco col fuoco, so che c'è chi può capire davvero e non è poco. C'è chi mi supporta, chi mi sopporta, chi lascia la sua porta aperta, e questo è ciò che importa. Sorta dal mediocre una forza, una certezza, vale bene ciò che costa, la consapevolezza. A chi disprezza non rispondo nemmeno, parla, parla invano, il cigno ormai in cammino, il cigno ormai in cammino. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri, trovo un senso in tutto questo, nei miei sogni più veri. Trovo luce nel buio, verso nuovi sentieri. in tutto questo, nei miei sogni più veri.